Unità 2. Lessico. Traccia 12. 1. Pronto Hotel Vittoria, desidera? Buongiorno, vorrei sapere se avete una doppia per due notti, da lunedì 18 a martedì 19 di questo mese. Sì, la vuole con o senza bagno? Qual è la differenza di prezzo? Dunque, con bagno costa 70 euro a notte, senza bagno 60. La colazione è inclusa. Allora prendo una doppia con bagno. Bene, mi dice il suo nome, per favore? È Sandra Castelli. Castelli. E il suo numero di telefono? È 0363 96 78 74. 2. Pronto, Villaggio La Perla, in che cosa posso esserle utile? Avete una camera singola per la prossima settimana per 4 notti, dal 28 giugno al 1 di luglio? Singola no, abbiamo solo una doppia uso singola con bagno. Sì, e quanto costa con la mezza pensione? 100 euro con la mezza pensione. Senta, un'altra domanda. Nella camera c'è l'aria condizionata e il frigo bar? Sì, certo. Va bene, allora la prendo. Il suo nome e un numero di telefono, gentilmente? Susanne Müller, 0783 22 45 803. 3. Buonasera, Camping Odissea, dica. Volevo sapere se avete un bungalow per il fine settimana. Per il prossimo? Sì, per il 30 e il 31 luglio. Sì, ne abbiamo ancora uno libero per 4 persone. Siamo una coppia, non ce n'è uno più piccolo? No, mi dispiace, è l'ultimo che mi è rimasto. E quanto costa? 95 euro al giorno. A bungalow o a persona? No, a bungalow. Ah, bene, allora lo prendo. Mi dice come si chiama? Salvatore Locascio. Mi lascia un recapito telefonico, per favore. 071 44 58 091.